Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Sempre più il tema della sicurezza stradale si sposa col tema della legalità nel mondo dei trasporti e dell'autotrasporto. Il rispetto delle regole è infatti il punto di partenza per ridurre l'incidentalità. Per questo si sono riuniti a Riva del Garda gli addetti del settore e i rappresentanti delle forze di polizia, con l'obiettivo di far dialogare due realtà fra loro particolarmente vicine. La tutela della sicurezza stradale passa infatti attraverso le verifiche sui tempi di guida e riposo, attraverso il rispetto dei limiti di velocità e dei limiti di massa o le buone condizioni del veicolo. Le stesse organizzazioni di categoria chiedono da tempo controlli puntuali ed efficaci nei confronti di chi non solo rende meno sicure le nostre strade, ma mette in atto una concorrenza sleale verso le aziende più scrupolose e attente alle norme. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E questo è un mondo che ha bisogno sempre di più di controlli puntuali, controlli mirati, soprattutto il settore dell'autotrasporto. Ecco che quindi c'è bisogno di mettere in campo tutte le forze disponibili per questo tipo di attività, dalle forze tradizionalmente impegnate in questo settore, come ad esempio la Polizia Stradale, fino ad arrivare anche alle polizie locali e alle polizie municipali. Qualche giorno fa si è svolto a Riva del Garda un appuntamento dedicato alla sicurezza dell'autotrasporto, Eurotrax, i tre giorni dell'autotrasporto, organizzato dall'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, ANVU, e da EGAF. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Cominciamo con Nicola Salvato, presidente di ANVU. Innanzitutto ci spiega un po' qual è l'attività di questa associazione. L'ANVU è un'associazione professionale che si preoccupa, per in ossequio allo statuto che ha in essere dal 1986, della cultura e la formazione della polizia locale. Questa è l'attività prioritaria che l'associazione pone in campo. In secondo luogo, si preoccupa di portare nel campo delle istituzioni quelle richieste, quei fabbisogni che dovrebbero costituire quel valore aggiunto, quindi un interloquio costruttivo volto a migliorare le sorti, ma soprattutto l'attività della polizia locale, nel rispetto chiaramente delle specifiche competenze che il legislatore ha riservato. E tra un po' parleremo di queste specifiche competenze, cercheremo di capire a chi spetta cosa. Altro soggetto organizzatore di questa tre giorni, l'EGAF, casa editrice da sempre particolarmente attenta anche alle tematiche del mondo del trasporto. Ne parliamo con Claudio Bandini, che è il presidente del CDA di EGAF. Che cos'è cambiato negli ultimi anni in questo settore da un punto di vista normativo, e siamo pronti ad avere una sorta di, chiamiamolo, testo unico dell'autotrasporto? Testo unico dell'autotrasporto è un sogno che è ormai da tanti anni riposto nel cassetto, perché in questo momento non se ne vedono nell'immediato delle risposte concrete. Vi sono dei pacchetti autotrasporto sia a livello nazionale sia a livello comunitario che cominciano a prendere in via molto lentamente, con molta debolezza per la verità. Quindi di grande movimento nel settore non ce n'è. Ecco, lei si riferisce al pacchetto autotrasporto che sta portando avanti l'Unione Europea e che è stato proprio al centro di questi tre giorni, tra l'altro, di attività di Riva del Garda. Però ci sono grandi aspettative nei confronti di questi provvedimenti che dovrebbero in qualche modo uniformare questo settore in tutta Europa, laddove in questo momento invece esistono delle disparità davvero preoccupanti. Davvero, esistono disparità e non sarà facilissimo sanarle. Probabilmente a dicembre, dicono i nostri esperti, i nostri relatori, i nostri autori, si potrà vedere qualcosa di concreto. Non si sa però quanto sia vicino alle aspettative nazionali. Certo, infatti c'è un dibattito molto ampio, abbiamo ascoltato anche la voce delle associazioni di categoria a Riva del Garda proprio sul tema del pacchetto autotrasporto. Nicola Salvato, presidente di ANVU, dicevamo prima ci sono delle competenze specifiche, alcune competenze toccano agli organi di polizia stradale, altre ai carabinieri, altre alla finanza e altre alla polizia locale. Mi sembra di capire che c'è bisogno di uniformare e unificare gli sforzi per arrivare ad un obiettivo comune. La nostra mission è quella di cercare un minimo comune denominatore per costruire quella rete che oggi si ha bisogno per fronteggiare questa spinosa materia. Chiaramente gli ascoltatori magari non hanno la conoscenza specifica di che cosa voglia dire effettuare un controllo sull'autotrasporto. Oggi si ragiona poco a livello nazionale, si ragiona molto a livello comunitario, si ragiona moltissimo a livello internazionale. Ecco quindi i tre parametri, i tre aspetti. Facciamo due considerazioni sulla storia di questa attività che viene chiesta dallo Stato. Nel 2009, con il secondo pacchetto Maroni, viene varata una circolare, anzi un protocollo d'intesa fra Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro per aumentare i controlli nel settore dell'autotrasporto, anche in ossequio poi alla modifica della cosiddetta legislazione specifica della liberalizzazione dell'attività di autotrasporto che nasce nel 2005 col decreto legislativo 286. Quindi tre componenti: attività di controllo, imprese che possono godere non più del regime di contingentamento delle licenze ma l'apertura al mercato previa iscrizione all'albo, e il legislatore comunitario che va a modificare il proprio DNA, soprattutto uniformando l'attività di controllo nei tempi di guida e nei tempi di riposo. Questi sono i tre step storici. Chiaramente veniamo investiti di questa nuova competenza, che tanto nuova non è, in materia di controllo di trasporto internazionale. Se ne esce naturalmente una sorta di aggiornamento costante e continuo da parte degli organi di polizia stradale su questa materia, e ANVU incomincia a mutuare e a sposare questo ambizioso progetto. Ecco, fermiamoci un attimo, tra un po' riprenderemo un attimo questo tema. Quindi mi sembra di capire che alla base di tutto questo c'è un progetto che prevedeva il coinvolgimento delle forze di polizia locale in questo tipo di controlli, progetto che però mi sembra di capire lo stesso si è arenato in qualche modo. Claudio Bandini, EGAF, quanto i tecnici, i normativi, tutte le forze in questo momento in campo, e qui a Riva del Garda ne abbiamo visti davvero tanti di funzionari, dirigenti del Ministero dei Trasporti che si sono impegnati e che si stanno impegnando in questo settore, possono fare, che tipo di contributo possono dare all'evoluzione dell'autotrasporto italiano? Beh, loro possono darlo come tecnici e lo stanno dando. Già il fatto di scrivere per EGAF, di scrivere le relazioni per i ministri, di scrivere è già un compito piuttosto importante, un sussidio affinché non vengano scritte cose magari tecnicamente non corrette. Ma ovviamente non basta questo, occorre la volontà politica che va cercata, insieme con le associazioni che sono gli altri interessati di questo mondo. Ieri, come lei accennava prima, abbiamo avuto un esempio di questa interazione fra le associazioni che erano tutte sedute al tavolo e che colloquiavano sia con la presidente dell'albo sia con i partecipanti. Quindi vi è stata una interazione, ecco, questa interazione deve continuare con le istituzioni, quindi per un progetto comune. Nicola Salvato, ANVU, allora stavamo dicendo c'è stato un embrione di iniziativa, di attività di controllo questo qualche anno fa, poi che cosa è successo? È successo che abbiamo trovato degli ostacoli e continuiamo a trovare degli ostacoli piuttosto importanti, nel senso che noi abbiamo bisogno oggi di un interlocutore politico, quindi i vertici, quindi i ministri, ancora meglio sarebbe i sottosegretari, che sono un po' più tecnici, volti a delineare quelli che sono degli aspetti costruttivi, o meglio quegli spiragli che oggi la tecnologia, le banche dati, l'apertura e la consultazione che oggi è preclusa alla polizia locale, volta a certificare e acclarare in maniera costruttiva l'attività di controllo. Devo dire però che c'è un e questo me ne assumo la paternità, perché l'ho proposto, è stato lungimiralmente visto come un valore aggiunto a mani del Ministero dei Trasporti in una direzione strategicamente importante, che è quella del Nord-Est, con cui abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa tra ANVU e Ministero dei Trasporti su due fronti. Il primo, quello della formazione, che deve essere uno scambio fattivo e costruttivo, paritetico, proprio per aumentare la cultura e lo studio di questa materia. Il secondo aspetto, quello di divulgare, coinvolgere e valorizzare le polizie locali nei controlli congiunti. Quindi Ministero dei Trasporti con i CMR, con le attività unitamente anche ai colleghi della Polizia Stradale e la Polizia Locale, proprio in un concetto di squadra per favorire che cosa? Quella rete di cui accennavo prima nell'apertura del mio intervento. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti, Claudio Bandini, presidente CDA EGAF, Nicola Salvato, presidente di ANVU. L'appuntamento con il mondo dei trasporti ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.